Olimpia. Miti e verità dello sport. Di Dario Ricci. I'm happy to announce to this UN General Assembly that the International Olympic Committee will invite the highest qualified refugee athletes to participate in the Olympic Games Rio de Janeiro 2016. La sede, quella più autorevole, il Palazzo di Vetro delle Nazioni Unite a New York. La voce che state ascoltando, quella del numero uno del Comitato Olimpico Internazionale, il tedesco Thomas Bach, che così ha annunciato proprio all'ONU che ai Giochi di Rio 2016 vi sarà una squadra del tutto particolare che gareggerà con i suoi atleti sotto la bandiera e l'inno olimpico. Quella dei rifugiati, di ogni estrazione sociale, politica ed etnica, perché i senza patria di tutto il mondo divengano almeno cittadini della città universale, quella a cinque cerchi, quella dello sport. And it will make the world better aware of the magnitude of this crisis. E proprio in questi mesi, in queste settimane, in decine di piccoli centri d'allenamento sparsi nel mondo ci sono atleti, rifugiati e migranti che stanno provando ad allenarsi per trasformare in realtà il sogno di partecipare alle Olimpiadi di Rio de Janeiro. Alcune delle loro testimonianze ci arrivano dal campo di allenamento Angong, a 20 km da Nairobi. Rose Nakite è un'atleta sud-sudanese di 20 anni, che gareggia sugli 800 e 1500 metri. Da 16 anni vive in un campo rifugiati nel nord-ovest del Kenya, Kakuma. Qui risiedono quasi 200.000 rifugiati da Somalia, Uganda, Etiopia, Eritrea, Sud Sudan, Congo e Ruanda. Before we came here, we had been facing a lot of challenges due to the hot weather in Kakuma and the place is too dry that we cannot able to stay, but we adapt the situation where you are. Prima di arrivare in questo centro di allenamento, racconta Rose, ero a Kakuma, ma allenarmi era impossibile. Ogni giorno c'era una sfida da affrontare, a partire dal caldo e dalle condizioni di vita. Allenarsi era impensabile, ho dovuto adattarmi a tutto. Dawood Abubakar è invece un atleta somalo impegnato sui 5 e 10.000 metri. Ha lasciato il suo paese d'origine nel 1998 e ora sta cercando anche lui di qualificarsi per i Giochi di Rio. Quando ero nel campo per i rifugiati non avevo né tempo né occasione di allenarmi, dice Dawood. Qui ora sto migliorando le mie prestazioni, ho degli allenatori che mi seguono, mentre nel campo ero da solo e non potevo certo prepararmi nel migliore dei modi. Il Palazzo di Vetro dell'ONU, la megalopoli per i rifugiati keniana di Kakuma. L'ospite di Olimpia di oggi, nel suo attuale ruolo di ambasciatore del CIO presso le Nazioni Unite, ben conosce questi luoghi. Mario Pescante, benvenuto a Olimpia, la città dello sport. Buongiorno, buongiorno anche agli ascoltatori. Presidente, ci dica subito, quanti saranno i componenti di questo team di rifugiati a Rio? Lei sa che sono circa una quarantina identificati, ma si prevede che la partecipazione sarà da 5 a 10 atleti, non di più, perché i limiti di qualificazione sono molto, molto severi e loro parteciperanno ai Giochi Olimpici alle stesse condizioni degli altri, cioè non è che ci saranno corridoi preferenziali. Alcuni in realtà sono già qualificati, poi, vero? Sono tre atleti, perché qui parliamo di rifugiati, ma è chiaro che ognuno ha una sua storia. Ecco, nel citare questi tre forse ci si può rendere conto. Qualche nome magari lo sbaglierò, ma comunque la prima rifugiata è questa Raileb Asemani, iraniana nel taekwondo, quindi una donna, che si rifugiò in Belgio nel 2012 per aver incontrato una atleta israeliana in un torneo in Olanda. Aveva capito che partecipando, quando le direttive erano quelle di lasciare il tatami senza alcuna motivazione, lei ha scelto una strada senza ritorno, cioè quella di incontrare la israeliana. È rimasta così in Olanda e quindi in Belgio, dove fa la postina, ha avuto un congedo senza stipendio ed è la prima, devo dire, con una caratteristica molto particolare. Non è una rifugiata che è arrivata sui barconi, per capirci, o lungo il percorso balcanico, per dire, ma si è trovata lì e ha fatto una scelta anche di vita, rifiutandosi di boicottare l'atleta israeliana. E questa credo che sia il simbolo di tutto quello che vale a dire. Gli altri due sono un siriano invece di 17 anni che è fuggito attraverso l'Egeo nel percorso Turchia-Grecia, si allena in Germania, ha ottenuto il limite e quindi sarà il secondo atleta che accompagnerà il terzo, che è del Congo, judo femminile, infatti si chiama Misenga, che si allena in Brasile perché anche lì andò per delle gare in Brasile ed è rimasto dal 2013 in Brasile. Ecco, questi tre sono per ora i battistrada di quelli che ci auguriamo possa essere una rappresentanza rappresentativa più numerosa. Scelta strategica quella del presidente del CIO BAC in un momento di forti riforme per il mondo olimpico, giusto presidente Pescante? Beh, io direi che sono state, come dire, i due atti politici che hanno contraddistinto questa presidenza, che non è che duri da molto. L'altro, aggiungerei le nuove condizioni, sfiora anche, non dovrei pronunciarmi, la candidatura di Roma, perché le nuove condizioni per organizzare i giochi olimpici hanno sovvertito i precedenti requisiti che erano conditi da numero inusitato di posti in albergo, autostrade, metropolitane, aeroporti, mentre la scelta che è stata fatta adesso è stata quella low cost, oserei dire, cioè di privilegiare il rifacimento di impianti, soluzioni temporanee e così via. La seconda, indiscutibilmente, che ha un valore politico molto più importante, è stata questa di ridare una cittadinanza, chiamiamoli così, che è la cittadinanza, come dire, globale dell'universo, a chi non ha più una patria, non ha più una terra, e non per colpa loro. Gli atleti hanno ritrovato la loro casa, che è la casa della famiglia olimpica. Non è del resto la prima volta nella sua storia che il CIO scende in campo direttamente per garantire una bandiera agli atleti senza patria. Sì, è già avvenuto, e per la verità mi occupai proprio io per questione di vicinanza nel 92 a Barcellona, per quanto riguardava i paesi, i territori dell'ex Jugoslavia, in particolare gli atleti della Serbia, che erano sanzionati dall'ONU e parteciparono alle stesse condizioni. Fu una rappresentanza molto numerosa di sloveni, di croati, del Montenegro, ma anche e soprattutto di atleti serbi che non sono stati sanzionati dal loro paese, perché lo sport, voglio dire, deve stare al di fuori di queste sanzioni. L'altra è stata quella di Marial, una maratoneta del Sud Sudan, che non avendo loro un comitato olimpico ha partecipato alle Olimpiadi di Londra del 2012. Quindi ci sono questi precedenti, ma vorrei dire che questo chiamiamolo anche precedente, ha un significato, come dicevo prima, dal punto di vista simbolico molto molto molto particolare. Un messaggio forte, quindi, quello che dal CIO arriva a tutto il mondo. Ma questo messaggio è diretto a chi? Il messaggio è diretto a chi? Io l'ho visitato il centro in Kenya di Kakuma, ci sono 180.000 rifugiati, 60 campi danno ospitalità a quasi 5 milioni di rifugiati, in Europa solo nel 2015 sono 700.000, cioè anche questa gente che per ora è senza patria, che cercherà una patria diversa, insomma, ecco, si troveranno secondo me rappresentati da questi 5, 6, 10 mi auguro atleti che si trovano nelle stesse condizioni, che però il CIO gli ha dato la possibilità di competere, e questo è proprio un messaggio per un futuro che riguarda tutti, non solo gli atleti ma anche quelli che non fanno sport ma che vivono la stessa tragica esperienza. Mario Pescante, grazie per essere stato oggi ospite di Olimpia, la città dello sport. Grazie a voi e buon. Olimpia, miti e verità dello sport. L'inno ufficiale del movimento olimpico che state ascoltando e la bandiera a 5 cerchi. Saranno questi i simboli che rappresenteranno ai Giochi Olimpici di Rio de Janeiro, al via il prossimo 5 agosto, la rappresentativa dei rifugiati. Il team costituito dal Comitato Olimpico Internazionale per dare legittimità e voce a tutti gli atleti senza patria. O forse meglio, in cerca di una nuova patria rispetto a quella di origine. Ne parliamo oggi a Olimpia con un altro ospite che ha recentemente intervistato proprio su questo tema il presidente del CIO Thomas Bach. Gianni Merlo, collega, storica firma della Gazzetta dello Sport e presidente dell'Associazione Internazionale della Stampa Sportiva, benvenuto a Olimpia, la città dello sport. Grazie a voi, sono felice di farvi poter partecipare a questa vostra città dello sport. Gianni, una grande sfida quella che vuol mettere in campo il CIO in vista di Rio 2016. Io credo che non sarà facile, perché loro sono partiti con l'idea di una cinquantina di persone che sono già state raccolte. Poi purtroppo questi atleti dovranno anche fare i minimi di partecipazione, dovranno quindi allenarsi, saranno seguiti da preparatori di alto livello, e alcuni di loro non potranno farlo, però intanto saranno reinseriti nella società, e questo secondo me è la cosa più importante. La squadra olimpica dei rifugiati rappresenterà il vertice di un movimento che alla base, nello sport di tutti i giorni, vede impegnate già tante associazioni dilettantistiche che attraverso proprio lo sport accolgono, integrano, cercano di far dialogare i migranti tra loro e con i loro nuovi paesi di approdo. Proviamo oggi a raccontarvi una di queste storie. Ciao, sono Lanzine, uno dei calciatori della Liberi Nantes. Quello che vedete è il nostro spogliatoio mentre ci prepariamo. La nostra squadra è formata da ragazzi che vengono da tanti paesi diversi. Per noi non è semplice comunicare perché parliamo diverse lingue. Quartiere di Pietralata, periferia di Roma. Qui l'associazione Liberi Nantes ha scelto il calcio come linguaggio universale per accendere il dialogo, come spiega il presidente Alberto Urbinati. La Liberi Nantes è un'associazione che dal 2007, esattamente dal 26 ottobre del 2007, si occupa di permettere l'accesso allo sport ai migranti forzati, cosiddetti migranti forzati, ovvero rifugiati e richiedenti asilo che sono ospiti nei centri d'accoglienza di Roma e provincia. Abbiamo cominciato con un gruppo di amici mettendo a disposizione un campo, e appunto nel 2007, quando ancora il fenomeno non era così importante come adesso, e da lì in poi la situazione ci ha, diciamo, travolto, perché i ragazzi hanno cominciato a fare il passaparola fra di loro, e quindi il campo si è cominciato a popolarsi di persone. Dall'anno successivo abbiamo subito provato ad alzare il tiro, ovvero abbiamo deciso di partecipare ad un campionato federale. Siamo stati, credo, i primi sicuramente in Italia, ma non so se anche in Europa. Quindi noi da 8 anni ormai facciamo il campionato federale di terza categoria della provincia di Roma. Migranti calciatori, quelli della Liberi Nantes, che arrivano dai paesi più diversi. Ovviamente ci sono state delle differenze, delle variazioni da quando abbiamo cominciato ad oggi. In questo momento gran parte dei ragazzi che giocano con noi vengono dall'Africa subsahariana, quindi c'è una forte componente di ragazzi gambiani, poi ci sono senegalesi, togolesi, vengono dalla Guinea-Bissau, dal Burkina Faso, quindi insomma da tanti paesi dell'Africa subsahariana in questo momento. In campo ci sono da sfidare gli avversari, ovvio, ma superare gli ostacoli burocratici è ancora più ostico. Noi disputiamo il campionato, quindi ci misuriamo con le squadre italiane, e con tutte le difficoltà connesse a mandare avanti una squadra fatta in questo modo, noi comunque saremmo virtualmente in zona playoff, quindi potremmo giocarci la promozione. Dico virtualmente con una nota di rammarico, perché purtroppo dobbiamo giocare fuori classifica, perché questo è stato il compromesso che abbiamo dovuto accettare con la federazione per fare in modo di iscrivere la nostra squadra, perché ci sono delle norme UEFA che impongono che si possano tesserare soltanto 2 extracomunitari per ogni squadra. In realtà si ne potrebbero tesserare anche molti di più, ma la procedura burocratica è talmente complicata che noi ci abbiamo rinunciato. Insomma, dovremmo chiedere i transfer per ogni giocatore dal paese di provenienza, quindi insomma in alcuni casi sarebbe addirittura quasi una contraddizione in termini, perché un rifugiato, chi ha riconosciuto lo status di rifugiato, interrompe i rapporti col proprio paese, quindi dovrebbe autodenunciarsi dicendo che vuole giocare a calcio in un paese che lo sta ospitando perché ha richiesto asilo. Quindi insomma la situazione è un po' difficile, ecco. Quindi noi abbiamo accettato di giocare fuori classifica perché in realtà quello che ci interessa è onorare lo sport sul campo. Il pallone diventa allora, malgrado tutto, strumento di mediazione, dialogo, recupero dell'identità. Purtroppo il sistema di accoglienza in Italia è tutt'altro che perfetto. I ragazzi che vengono ospitati nei centri di accoglienza non hanno grandissime occasioni per integrarsi con la società italiana. Il calcio è uno strumento molto potente da questo punto di vista perché si fa inclusione giocando, quindi è il modo più naturale, più semplice per un ragazzo che in molti casi ha dai 20 ai 30 anni per entrare in una nuova realtà completamente diversa da quella che conosce, da quella da cui fugge. E quindi questo è il primo obiettivo, l'autostima, il recupero dell'autostima. E poi tutto il resto viene di conseguenza. Il presidente della Liberi Nantes, Urbinati, saluta con favore l'iniziativa del team dei rifugiati per Rio 2016 e ci ricorda la storia di una campionessa cui il sogno olimpico è costato il sacrificio più grande. A me fa pensare alla bellissima storia che ha raccontato anche Giuseppe Catozzella nel suo libro Non dirmi che hai paura, dove racconta proprio la storia di Samia, che è una ragazza somala che scappa dalla guerra nel proprio paese e che purtroppo partecipa alle Olimpiadi di Pechino e che poi, per l'aggravarsi della situazione nel suo paese, tenta di raggiungere l'Italia per partecipare alle Olimpiadi del 2012 a Londra e purtroppo muore in mare. È una delle tantissime vittime del mare di cui è disseminato ormai il Mediterraneo. E quindi io credo che il mio primo pensiero quando ho saputo questa cosa è andato a Samia, proprio perché lei non ce l'ha fatta purtroppo a prendere parte alle Olimpiadi e sarebbe stato invece bello vederla correre sotto una bandiera che potrebbe essere la bandiera universale dello sport. Gianni Merlo, abbiamo ripercorso la storia della Liberi Nantes. È il simbolo della forza dello sport di base, che unito allo spirito olimpico prova a dare la sua risposta a una crisi forse senza precedenti nella nostra storia. Diciamo che lo sport ha sempre cercato di adeguarsi alle situazioni e di poterle capire e di poter anche lanciare nuovi messaggi. Questo penso però sia il più importante, il più nuovo, perché altre volte era successo, ma era per situazioni locali. Mentre questo è un dramma di proporzioni che nessuno poteva immaginare neppure 2 anni fa. Gianni Merlo, grazie per essere stato oggi ospite di Olimpia, la città dello sport. Grazie a voi. Olimpia, miti e verità dello sport. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet radio24.it.